Buonasera, buonasera a tutti qui dalle frequenze di Radio Wombat per questo sabato sera. Ritorna Tonight Alive con la 51esima puntata della trasmissione dall'Ai Dama qui insieme a voi per accompagnarvi in questo sabato sera preserata, spero per voi. E come avete potuto sentire dalla sigla, come uso e costume della trasmissione, la sigla cambia tutte le volte, è un brano dei protagonisti di questa trasmissione monografica, e in questo caso sono i New Order, che tra l'altro i New Order tra il 1977 e il 1980 non erano i New Order, ma bensì i Joy Division. Infatti Ian Curtis alla voce, Peter Hook al basso, Stephen Morris alla batteria e Bernard Sumner alla chitarra e alle tastiere erano ovviamente i componenti dei Joy Division, che grazie anche all'aiuto del produttore Martin Hennett appunto hanno fatto, direi, sicuramente un pezzo di storia del post-punk, forse una delle band più rappresentative di quello che viene chiamato il grande calderone del post-punk, che come qualunque genere con il postfisso posta appunto significa un po' tutto, ma i Joy Division sicuramente sono stati una band cardine di questa ondata di musica dopo il crack del punk del 1977. E come spero sappiate, Ian Curtis, il carismatico e super introverso leader dei Joy Division, mise fine alla sua vita il 18 maggio del 1980, impiccandosi alla rastrelliera della cucina di casa propria, situata al numero 77 di Barton Street a Macclesfield, lasciando la moglie Deborah, da cui ormai si era separato, e la figlia piccola Natalie. E secondo il film biografico Control, diretto da Anton Corbin, prima di compiere il gesto che mise fine alla sua vita, Ian Curtis guardò il film La ballata di Stroszek di Werner Herzog e ascoltò l'album The Idiot di Iggy Pop. E tutto questo successe il giorno prima che i Joy Division avessero la prenotazione per la partenza del loro primo tour americano, e anche appunto l'uscita del loro secondo album Closer, e ovviamente il resto della band rimase completamente stravolta e sconvolta dal gesto del proprio leader, e si ritrovarono appunto in una situazione in cui non se la sentivano per niente di andare avanti, ovviamente. E subito dopo la sua morte, appunto, i restanti membri dei Joy Division decisero tutti insieme di non continuare più sotto il nome Joy Division della band, e che appunto fecero finire lì insieme alla vita di Ian Curtis. E dopo dopo un paio di mesi, anche quasi tre, di riflessione, il 29 luglio del 1980, questa band, questo trio con ancora senza nome, rifece il suo primo concerto alla Manchester Beach House. E Rob Gretton, il manager della band, decise per il nuovo nome della band, leggendo un articolo del The Guardian intitolato The People's New Order of Kampuchea. E la band adottò, il nome piacque e la band adottò questo nome, anche se era già stato precedentemente usato da un progetto solista del chitarrista degli Stooges, Ron Ashton, che aveva chiamato un suo side project, The New Order. E appunto adottarono questo nome. Dopo Joy Division, e come tutti e due i nomi, inutile dirvelo, ma visto che stiamo trasmettendo da Radio Wombat, è bene puntualizzare il nome New Order come il nome Joy Division, non hanno assolutamente niente in relazione. Appunto, vuol dire ordine nuovo, New Order, e non c'entra niente ovviamente con i gruppi di estrema destra. Era come Joy Division, che era anche quello un nome abbastanza che riporta in mente lugubri ricordi. Infatti, Joy Division erano le baracche dove venivano tenute le donne nei campi di concentramento. Anche se fanno questi riferimenti, non hanno assolutamente niente di destrorso. Era appunto un puro atto di provocazione in puro spirito punk. Basti ricordare appunto David Bowie e Iggy Pop, che si vestivano da ufficiali nazisti solo per provocazione. Addirittura Lou Reed è pure ebreo, quindi immaginatevi voi. Quindi questa era una puntualizzazione doverosa, visto il nome abbastanza inquietante che si erano dati. Però appunto questa puntualizzazione, il nome New Order appunto era stato scelto dal manager Rob Gretton dopo aver letto questo articolo sul The Guardian. Appunto, niente a che fare coi fasci o coi nazi, assolutamente. E all'inizio la band faceva a turno al microfono per sostituire Ian Curtis. Poi a un certo punto Sumner si sentì il più in grado di prendere il ruolo davanti al microfono. E infatti all'inizio cantava quando non suonava la chitarra. E comunque mancava sempre un componente, e scelsero come quarto membro del nuovo gruppo la ragazza di Morris, ovvero Gillian Gilbert, che era stata invitata a far parte della band nell'ottobre del 1980, sia come tastierista che come chitarrista aggiunta. E la sua prima performance in quelli che ormai si chiamavano i New Order era stata allo Squat di Manchester il 25 ottobre del 1980. E la prima uscita a nome New Order l'abbiamo appena ascoltata nella sigla di stasera, ovvero Ceremony, con sul lato B In a Lonely Place. E queste due canzoni erano state scritte qualche settimana prima da Ian Curtis, qualche settimana prima di togliersi la vita appunto da Ian Curtis. E nel 1981 esce il primo album a nome New Order, ovviamente sull'etichetta di casa, la leggendaria Factory. E questo primo album non fece che ribadire il concetto attraverso una serie di brillanti soluzioni armoniche, ad esempio con il boogie saltellante di Dreams Never End, che ancora sente tantissima influenza del suono dei Joy Division, ovviamente, cantata con un'aria da zombie da Sumner, oppure il tribalismo elettrico alla Suicide di Truth, agliato da uno strimpellio nevrotico di chitarra, il lugubre country and western di Chosen Time, la girandola di invenzioni ritmiche ed elettroniche che culmina nei balletti schizofrenici di Senses e Denial. E appunto per capire questa nuova direzione presa dal gruppo dopo la dipartita del leader, adesso ci sentiamo Senses da questo primo movement del 1980, New Order, Tonight Alive, ovviamente Radio Wombat. questo appunto era Senses dal primo album Movement del 1981, ancora un suono, anche se si vede già la direzione che vorranno prendere, ma un suono ancora direi decisamente legato a quello dei Joy Division. E vale la pena andare un attimo a parlare della Factory Records, l'etichetta che pubblicava gli album sia di Joy Division che poi ovviamente poi The New Order. La Factory Records è un'etichetta fondamentale all'interno del panorama indipendente di quegli anni, degli anni del post-punk, forse l'etichetta indipendente più famosa importante di tutta l'Inghilterra, con ovviamente base a Manchester. Aprì i battenti nel 1978, fondata da Tony Wilson e Alan Erasmus, e ovviamente sotto la sua ala protettrice avevano in carniere veramente dei grandissimi gruppi di quegli anni, come ovviamente i già citati Joy Division e New Order, ma anche gli A Certain Ratio, i Durruti Column e gli Happy Mondays, solo per citare i più famosi. E come un'altra famosa etichetta indipendente di quegli anni, la 4AD, usava questo team creativo di casa che era formato appunto dal produttore Martin Hennett e dal grafico, il famosissimo grafico Peter Saville. E come ci ricorda Peter Hook nel libro fondamentale, anche questo direi, da cui ho attinto a piene mani per la puntata di stasera, ovvero Post-Punk 1978-1984 del grande Simon Reynolds, Peter Hook ricorda il periodo come un momento di profonda crisi per il gruppo e Martin Hennett. L'unico risultato positivo delle session del primo album di Movement, spiega Hook, fu che Hennett insegnò ai ragazzi come manovrare la console di mixaggio, e che errore fatale fu da parte sua quando arrivò il momento di registrare il singolo Temptation. Ce lo togliemmo dalle palle e facemmo tutto da soli, ricorda Peter Hook. Nel frattempo il gruppo aveva ritrovato il buon umore ascoltando quella che viene chiamata l'Italo disco elettronica italiana, mentre Morris, a furia di sperimentare, aveva imparato a programmare la batteria elettronica, cosa che diventerà poi fondamentale, come vedremo nei lavori successivi della band. E visto il prossimo brano, vale la pena ricordare l'etica che avevano i New Order, come anche i Joy Division ce l'avevano prima di loro e diversi gruppi post-punk di quegli anni, tra questa etica della separazione dei singoli dagli album. Di solito nel music business, almeno fino a certi anni, il singolo veniva usato come apripista per vedere le reazioni del pubblico, per invogliare appunto il pubblico nell'attesa dell'album, e poi appunto questo singolo si presentava puntualmente nell'album che successivamente veniva pubblicato. Invece i New Order, come appunto anche i Joy Division, hanno proprio questa separazione tra i singoli e gli album, che sono proprio due entità separate all'interno della discografia della band. Vivono proprio di vita propria. Poi, certo, ovviamente, quando sono state fatte le riedizioni in CD negli anni 90, i singoli poi sono stati reinclusi nelle riedizioni in CD, ma originariamente erano proprio due entità separate. E a proposito di questi singoli, appunto io adesso vi andrei a far sentire il singolo del dicembre del 1981, quindi il singolo subito successivo dell'album Movement, è forse il primo dei tanti punti di svolta all'interno della discografia della band, e questo brano è Everything Gone Green, qui in edizione dal singolo 12 pollici, New Order, Radio Wombat, Tonight Alive. Thank you. E questo era Everything Gone Green, il singolo dei New Order del 1981, qui in versione 12 pollici. E dopo l'uscita appunto di questo singolo parte il loro primo tour promozionale in America e anche i New Order persero la testa letteralmente per New York. La loro musica ne assimilò gradualmente le varie espressioni dance, tra cui la post disco o il chiassoso e sintetico Latin freestyle e la electro, un sottogenere dell'hip hop pesantemente influenzato dai Kraftwerk e fondato su batterie elettroniche e sintetizzatori. Grazie a Ruth Polsky, la loro tour manager americana, che scritturava gruppi per lo Hurrahs e il Danceteria, e New Order conobbero un nuovo tipo di club, chic e alla moda, completamente diverso dagli squallidi locali rock e dalle discoteche topaie a cui erano abituati in Inghilterra. Un'altra cosa che facevamo a New York, ricorda il batterista Stephen Morris, era ascoltare Kiss FM, i master mix di Shep Pettibone, di cui abbiamo già parlato, ovviamente se vi ricordate, nella puntata, in diverse puntate precedenti, appunto i master mix di Shep Pettibone su canzoni di Sharon Reed e dei D-Train. Metà del tempo lo passavamo in albergo ad ascoltare la radio, non ballavamo però, non ballavamo, ci vuole l'ecstasy per far ballare un bianco. E quando arrivarono a New York, i New Order erano ancora nella loro fase rock, tra l'altro. E appunto partendo da questo singolo, la strada ormai era tracciata per il futuro, un mix di prima techno con un suono basato sul riff di chitarra che mostrava appunto le fortissime influenze di questo nuovo sound dai suoni dei Kraftwerk, appunto, come già detto, e di Giorgio Moroder. E appunto dopo nel più avanti nella nuova in questa nuova direzione intrapresa completamente con le sequenze elettroniche, appunto, arriverà il singolo epocale, lo definirei proprio il primo vero punto di rottura della carriera dei New Order, ovvero la famosissima Blue Monday. L'avrete sicuramente già sentita chissà quante volte. Blue Monday, ispirata dal singolo, anche questo altrettanto storico per chi segue certi tipi di musica, Dirty Talk di Klain and MBOs, e anche dal grandissimo classico disco You Make Me Feel Mighty Real di Sylvester. E Blue Monday diventerà, pensate un po', il singolo più venduto di tutta la storia della musica inglese, proprio anche fino ai giorni nostri. Nessun singolo ha mai venduto quanto il successo planetario di Blue Monday. E la ripetizione di questo pattern elementare e il canto quasi colloquiale conferivano alla danza una qualità esistenziale che era l'ultimo link con i vecchi Joy Division. E a questo punto non si può che far ascoltare questo pezzo leggendario che è Blue Monday, qui ovviamente suonato dai New Order a Radio Wombat per Tonight Alive. Chissà quante volte l'avevate già sentito questo pezzo, almeno spero per voi, veramente una pietra miliare del suono elettronico degli anni Ottanta. E dopo il clamoroso successo di Blue Monday del 1983, i New Order convocarono Arthur Baker, all'epoca il produttore dance più richiesto di tutta New York, per registrare il singolo Confusion. Il video mostrava una splendida istantanea della scena post-disco newyorkese. I patiti del Latin freestyle raccolti attorno al fan house. Poi compaiono i New Order che osservano attentamente la reazione della pista da ballo mentre il mitico Jelly Bean Benitez, il DJ del locale, riproduce una versione provvisoria di Confusion con un registratore a bobine. E l'azienda, il club fondato a Manchester proprio dalla Factory e dai New Order, fu costruito sull'onda della danceteria, del Funhouse, del Roxy e di tutti quei fantastici club di New York. E i New Order si chiedevano perché non abbiamo nulla di simile a Manchester. E come nel caso delle ESG, la Factory portava in Inghilterra un po' di New York. E appunto in quel 1983, dopo questo incredibile singolo come Blue Monday, in maggio verrà pubblicato il loro secondo album dal titolo Power, Corruption and Lies. E ovviamente sulla Factory Records, e è chiaro che l'album è decisamente molto più elettronico rispetto al precedente Movement. E anche se magari messo in ombra dal successo incredibile di Blue Monday, l'album contiene diversi brani ben riusciti come Age of Consent, che è proprio una vena dark wave che ricorda, o almeno a me ha ricordato tantissimo, i Cure. Poi Ecstasy o Your Silent Face, oppure il pezzo che adesso ci andremo ad ascoltare, un altro pezzo che segue sempre ancora la scia di Blue Monday, e questa è Ultra Violence, New Order, Tonight Alive, chiaramente su Radio Wombat. Questa era Ultra Violence da Power Corruption and Lies, il secondo album dei New Order. E a questo punto arriviamo all'album successivo, al terzo album, sempre ovviamente prodotto dalla Factory Records, 1985. E questo nuovo album si chiama Low Life e continua il programma intrapreso già dall'album precedente, affinando ulteriormente le armi, ovvero sintetizzatori e sequencer. L'album si apre con una mutazione poliritmica della ballata folk Love Vigilantes e indovina un'aria memorabile come quella di Perfect Kiss. Sprofonda nella sconsolata malinconia amorosa di This Is Time of Night per librarsi subito dopo nell'epica galoppata di Sunrise e indulge in una elegia strumentale alla Mike Oldfield. Ricicla le loro infallibili cadenze da discoteca in Subculture e si conclude con un'altra filastrocca folk in formato elettronico, Face Up, con un approccio all'arrangiamento che ha qualcosa di sinfonico. I New Order riescono a dimostrare che anche la musica da ballo può emanare emozioni profonde. A questo punto ascoltiamoci in sequenza questa doppietta e ci ascolteremo Thieves Like Us, che è il singolo che precede l'album, e Sunrise, proprio da questo Low Life. Chiaramente sono i New Order, sempre su Tonight Alive e chiaramente su Radio Wombat. Thieves Like Us, New Order. Rain. Oh, it's karma. ride home is the best. Love is the cure for every evil. Love is the air that supports the ego. It's called love, and it's so uncool. It's called love, and somehow it's become unmentionable. It's called love. Questo era Thieves Like Us, il singolo che precedeva l'album del 1985, e il prossimo che ci andremo a sentire proprio ora di seguito, come vi avevo già anticipato, sarà Sunrise, pezzo proprio interno dell'album, bellissimo tra l'altro, a me piace tantissimo questo pezzo, e sono sempre in New Order, qui a Tonight Alive, Radio Wombat. Thank you. E questa era Sunrise da Low Life del 1985. Ma prima di andare avanti, per non rischiare il linciaggio da parte della direzione, giustamente vi ricordo i contatti per mettervi in contatto con noi e essere sempre aggiornati sulle novità di Radio Wombat. Ovviamente il sito, che è wombat.noblogs.org, dove potete trovare tutti i podcast e tutte le informazioni riguardanti la radio, le trasmissioni, le rassegne stampa e gli approfondimenti della radio. Il sito è ovviamente sempre costantemente aggiornato sulle attività della radio e non solo. E la mail, che ricordo sempre è il nostro canale preferito per mettervi in contatto con noi. Se vi volete mettere in contatto, scriveteci appunto sulla nostra mail, che è postawombat@insiberia.net. Scusate. E i nostri canali social, che sono Twitter, / Radio Wombat Fee su Twitter, dove potrete seguire le dirette, cioè i costanti aggiornamenti delle nostre dirette e degli speciali, e il nostro canale Facebook, che è facebook.com/ Radio Wombat Firenze. E ripartiamo con i New Order e arriviamo al loro album successivo del 1986, sempre ovviamente su Factory Records, ovvero Brotherhood. Sicuramente un album meno sintetico, che recuperava in parte la batteria e la chitarra acustica, come lato forte dalla sua Weirdo e State of the Nation, che sarà anche il singolo, e soprattutto Bizarre Love Triangle. E questo brano è il loro capolavoro di arrangiamento. L'ariosa melodia cantata da un crooning quasi alla Brian Ferry da Sumner è collocata su un ritmo freneticamente sincopato, e l'elettronica sembra quasi bollire sotto la pressione delle macchine. E pensate che vi stia per far ascoltare Bizarre Love Triangle, e invece no, ci ascolteremo il singolo, che, come vi ho già detto, è State of the Nation. E la cosa interessante è che State of the Nation ovviamente è il lato A del singolo, mentre il suo lato B è Shame of the Nation, la vergogna della nazione. E adesso appunto ascoltiamoci State of the Nation qua a Tonight Alive, chiaramente su Radio Wombat. Yes, it's the state of the nation. It's the state of the nation. That's only our salvation. Questa era State of the Nation, il singolo del 1986, ma come già precedentemente fatto per il caso dell'etichetta Factory, anche la Hacienda vale la pena di fare un approfondimento su questo leggendario club di Manchester che apre i battenti il 21 maggio del 1982. Oltre al tutto il giro della Factory Records, tantissime band e artisti hanno solcato il suo leggendario palco. Forse i primi sono stati la la band tedesca EBM di Electronic Body Music, dei Liaison Dangereux, ma poi si sono alternati sul suo palco band del calibro degli Smiths, di Madonna, gli Esordi e anche gli Einstürzende de Neubauten, che addirittura hanno trafanato i muri che circondavano il palco. Ma è nel 1986 appunto che diventa il primo club inglese a iniziare a fare serate di house music con i DJ Mike Pickering dei Quango Quango e di Little Martin, che ospiteranno la visionaria serata del venerdì chiamata Nude. E grazie proprio a questa serata il club diventerà concedetemi il termine, leggendario, che aiuterà questa serata appunto aiuterà a far aumentare la reputazione e le fortune della azienda, che da quel momento in poi registrerà il tutto esaurito fin dall'inizio del 1987. E adesso permettetemi una lettura dal libro Smile di Christian Zingales, mio grande nome tutelare che non finirò mai di ringraziare per tutta la sua sapienza musicale, e appunto pionieri assoluti di quello che esplode nel 1988: Bernard Sumner, Peter Hook, Gillian Gilbert e Stephen Morris nell'anno degli anni sono in pole position a Manchester con l'azienda, che è il teatro della nuova febbre acid e le pillole di ecstasy che traghettano la band e la gente che la circonda verso un mood celebratorio. È in questo contesto che si pensa al nuovo album, con l'idea di produrlo ai Real World Studios di Peter Gabriel a Bath, nella campagna inglese. Succede che a questo progetto venga preferito uno alternativo, Ibiza, ed è marasma. I New Order, forti dei soldi di una factory all'apice, passano l'estate del 1988 godendosi la gestazione di un album più costoso e più leggendaria della loro storia, in una villa con piscina, con l'alcol che scorre veloce, il sole che spacca in un cielo mai così azzurro sopra le teste dei quattro e i corpi che transitano da un club all'altro. Una bagarre che permette al quartetto di abbozzare solo le nuove canzoni che saranno poi definite effettivamente a Bath. L'album che ne esce, Technique, supervisionato da Michael Johnson, è nei negozi nel 1989. È la piena maturità dell'evoluzione stilistica e umorale new orderiana. È un putto in 3D di Peter Saville a dominare lo sfondo fucsia della copertina, come un rovescio technicolor della iconografia funerea dei Joy Division, e dentro c'è il paradiso. Technique è un disco classico e fuori dal mondo, come solo poche opere sono riuscite a fare. Un tridimensionale affresco di romanticismo punk, la giostra vertiginosa e austera del pop perfetto, una fiammata eterna di estatiche manovre dance in una centrifuga che incrocia le influenze acid house, balearic e new beat. Un disco capace di farti sentire totalmente libero o drammaticamente imprigionato in un limbo. La perfetta colonna sonora estiva. L'accostamento tra le parti suonate e quelle programmate, tra il feeling sanguigno e animale di basso, chitarra e batteria, e il taglio scintillante dei synth, blips e beats, raggiunge un'armonia perfetta. Apre Fine Time, marziale saluto con One of Us all'acid house, un caleidoscopio roteante di ipnodemenza, grottesco euforizzare post New Beat in un sornione portamento crooneristico fuori di sé, traspasmi di future disco, umori elettronici e fervori bizenchi. È il più avanzato penso dance mai prodotto dai nostri, e un incipit monolitico dalla cui costola prende forma tutto il resto dell'album. E questa è Fine Time dei New Order, ovviamente a Tonight Alive, Radio Wombat. E dopo questa iniziale fine time, come il ghiaccio che arde nel fuoco, sfila il secondo pezzo di questo Technique All The Way, che è un pop sparato come un proiettile emotivo, basso, chitarra e batteria che tondeggiano una freschezza primaverile ed esplodono in un giro di tastiera. Invece poi il terzo pezzo, Loveless, ha una grazia agreste, ballata aspra e rinfrancante, una bicicletta che si perde nella campagna di agosto. È un momento perfetto per Round and Round, il secondo pezzo, Dance. Puro esistenzialismo post-disco in una centrifuga di blips, plastiche e luci elettriche, in una malinconia mediterranea che esplode in guilty partner, che si tinge di caliente dramma e con una rabbia elegantemente implosa porta ad un picco le dinamiche chiaroscurali del disco. E Technique è il gioco più perverso dei New Order, una lotta di luci abbaglianti, il più riuscito annichilimento di forme e contenuti, l'ambiguità del concetto di vitalità, un subliminale assalto sensoriale. Dream Attack porta in un grembo materno tutti i sottintesi melodici implosi fino a qui e li rilascia in una finale di assolutezza. Dolorosa, il cuore che sembra esplodere in un affrancamento tragico. E questo era il finale di questo mitico Technique. E come prossimo pezzo andremo a ascoltarci proprio quello che è il secondo pezzo dance dell'album, il già citato Round and Round. Sempre New Order, qui a Tonight Alive su Radio, come sempre, Wombat. Driving me wild. questa era Round and Round dall'album Technique dei New Order. E nel 1990, pensate un po', i New Order verranno contattati dalla federazione calcistica inglese per comporre l'inno della nazionale del loro paese per i mondiali di Italia 90, che poi questo pezzo prenderà il nome di World in Motion, accreditato al gruppo England New Order. E la canzone, che è stata scritta insieme al commediante Keith Allen, sarà pubblicata solo per il mercato inglese, giustamente, direi anche. E curiosità è che inizialmente questo pezzo, i New Order lo volevano, era stato programmato per essere intitolato E for England, e ovviamente l'associazione calcistica pose chiaramente il veto a questo titolo, perché era un chiaro riferimento all'ecstasy e questa cosa alla Football Association non andava molto a genio, a quanto pare, però insomma i New Order ci hanno provato. E l'album successivo dei New Order sarà Republic, e questo album però ha su se stesso l'ombra del collasso della Factory Records, perché l'etichetta, dopo diverse difficoltà finanziarie, sarà costretta a dichiarare bancarotta nel 1992. E anche se i New Order non avevano mai avuto un contratto formale con la Factory, infatti era assolutamente inusuale una cosa del genere, come vi potrete immaginare, per un gruppo così famoso. E a causa di questa cosa, di non avere un contratto, possedevano legalmente i diritti delle loro registrazioni, quindi è stato abbastanza facile poi essere scritturati dalla London Records nel 92, che si offrì di pubblicare appunto il loro disco Republic. E dopo il collasso della Factory e la successiva firma dei New Order per la London Records, appunto viene pubblicato Republic, che viene distribuito in tutto il mondo nel 1993, preceduto dal singolo Regret, che tra l'altro è uno dei singoli che ha raggiunto i gradini più alti della classifica americana, che contiene anche Ruined in a Day, World e anche Spooky. Però non vi farò sentire nessuna di queste quattro canzoni, ma vi farò sentire Chemical da questo Republic, ovviamente dei New Order. Radio Wombat. questa era Chemical da Republic del 1993. E i New Order poi rimarranno inattivi dal 1993 al 1998, periodo durante il quale i membri parteciparono a vari side project. Già dopo la pubblicazione di Technique nel 1989, Sumner forma con Johnny Marr degli Smiths l'ex Kraftwerk Karl Bartos e con i Pet Shop Boys un supergruppo chiamato Electronic, attivo sporadicamente fino al 1998. Peter Hook forma il gruppo rock Revenge e poi i Monaco con David Potts. La Gilbert e Morris formarono invece i The Other Two lavorando su varie colonne sonore. Poi nel 2001 viene pubblicato Get Ready, il loro primo album dopo 8 anni di silenzio. Il posto della Gilbert, uscita dal gruppo per i problemi di salute della figlia avuta con Morris, viene preso da Bobby Gillespie dei Primal Scream e da Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, pensate un po', che coadiuvarono il gruppo, il lavoro del gruppo in studio e dal vivo in quegli anni, ma non entrarono mai ufficialmente in formazione. Il singolo Crystal ottiene un buon successo e in generale il disco si riavvicina al suono dei Joy Division, poche tastiere e molti bassi. Di nuovo un successo clamoroso ed un singolo come Crystal che non manca di conquistare nuovi e vecchi ascoltatori. Successivamente il gruppo collabora con i Chemical Brothers per il singolo Here to Stay. Inoltre la band viene ritratta nel mitologico, lo definirei, film 24 Hour Party People di Michael Winterbottom del 2002, che se vi piace il genere ve lo consiglio caldamente, che riguarda proprio appunto la scena musicale della Madchester degli anni 80 e 90. E dopo il concerto tenutosi a Buenos Aires nel novembre del 2006, il bassista Peter Hook suggerisce al gruppo di prendersi una pausa, e che però poi nel 2011 si riformeranno un'altra volta senza il suo bassista originale e nonché fondatore. E vi farei sentire a questo punto non una canzone di questo periodo, ma andrei a recuperare un pezzo dal loro secondo album Power, Corruption and Lies, ovvero Ecstasy, un pezzo che non potevo non mettere a chiusura della puntata dei New Order di stasera. E quindi a questo punto New Order con Ecstasy, sempre su Radio Wombat, Tonight Alive. potevo che chiudere con questo pezzo la puntata monografica di stasera su I New Order. E prima di lasciarvi al concerto che ho scelto per voi per stasera, vi ricordo gli appuntamenti che seguiranno qui su Radio Wombat, ovvero domenica con La Fuga del Gatto, con Bloody Mary e La Virgi che allieteranno il nostro la nostra domenica pomeriggio in ripresa dalla banda che promette stasera la vita notturna fiorentina. Infatti è l'ora anche per me di prendere e uscire. Tra l'altro, per chi ci ascolta da Firenze, volevo ricordarmi, prima mi ero colpevolmente dimenticato, che per chi sta qua a Firenze può ascoltarci anche in macchina in onde medie sulla frequenza 1359 1359 in onde medie in AM. Mi raccomando, sintonizzate le vostre radio in macchina sul canale AM di Radio Wombat. E adesso è proprio il momento di lasciarvi al concerto di stasera, che è un concerto al mitologico Festival di Glastonbury in Inghilterra, ovviamente del 1986, il 19 giugno del 1987, scusate, a Glastonbury, un festival che continua tuttora ad esserci, è uno dei più importanti, se non il più importante, in terra di Albione. È un concerto questo dell'87 pieno dei loro successi. Si inizia con Elijah, poi Touched by the Hand of God, Temptation, True Fate, Your Silent Face, Every Little Counts, Ceremony, Bizarre Love Triangle, Subculture, Sunrise, The Perfect Kiss, Age of Consent e gran finale, ve l'anticipo, in chiusura di concerto, la cover di Sister Ray dei Velvet Underground, pezzo, che dire, non si può dire niente su Sister Ray. E allora vi rinnovo l'appuntamento con Radio Wombat tutti i giorni, ma con Tonight Alive tra due settimane probabilmente, perché settimana prossima, sabato sera, ci sarà Basement Records, il ritorno. E vi voglio ricordare ovviamente che se perdete le dirette, i podcast sono sempre disponibili sul sito, mentre il concerto ovviamente lo potete sentire solo in diretta stasera e nella replica che, come sempre vi ripeto, della trasmissione di stasera, la replica andrà giovedì alle 23. E quindi un abbraccio, un bacione a tutti, buon sabato sera da Dalai Dama e da Radio Wombat. E alla prossima, divertitevi. Yo.